get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, siamo Caterina e Pina. Oggi, per continuare il nostro discorso su quanto la cultura possa aver influenzato il modo di pensare e di essere, costringendo le donne in una posizione di sudditanza, vorrei parlarvi di un libro molto particolare. Un libro che raccoglie numerose favole, le quali hanno in comune il fatto di avere come protagonista un personaggio femminile. L'autrice Angela Carter, originale scrittrice inglese, critica letteraria e giornalista, presenta il libro Le fiabe delle donne con queste parole: ingegnosa o coraggiosa, buona o sciocca, crudele, malefica o clamorosamente sfortunata, una donna occupa il palcoscenico di ogni favola. Le fiabe provengono da paesi diversi e da culture diverse. Ce ne sono alcune eschimesi, quindi dell'Artico, fino ad arrivare all'Estremo Oriente. Alcune europee, altre africane, e tutte sono eccentriche ed estrose, crudeli e feroce, bizzarre e a volte dissolute ed indecenti. Chiaramente tutte queste storie riguardano un tempo in cui le favole non erano destinate solamente all'infanzia, facevano parte di quella sfera di cultura orale che permetteva di raccontare agli adulti gli aspetti positivi e negativi della vita. Leggendo il libro ci si rende conto di come le donne, da sempre e nonostante tutto, siano in grado di reagire alla vita dimostrando una incredibile capacità e varietà di risorse. Capacità e varietà di risorse che vengono fuori, appunto, nella cultura non ufficiale, quella scritta dalle donne, che riesce a rappresentare le astuzie, gli espedienti, le scappatoie e le risorse che le donne mettono in atto di fronte a situazioni svantaggiose. Prendo ancora in prestito le parole di Angela Carter. Non offro queste fiabe come spirito nostalgico. Il passato di cui ci parlano era duro, crudele e avverso alle donne. Donne pur tanto abili nel creare disperati stratagemmi per imporre la loro volontà. Le offro in atto di commiato, al ricordo di quanto sagge, ingegnose, ricche d'intuito, a tratti ispirate, eccentriche e a volte pazze dalle gare, fossero le nostre bisnonne e le bisnonne delle bisnonne. Bene, proprio perché si continui questa forma di discendenza del sapere, così come una volta veniva tramandato dalla viva voce il ricco patrimonio di materiale narrativo, anch'io oggi voglio raccontarvi una favola tratta dal libro Le fiabe delle donne, appunto. A testimonianza del contributo fornito alla letteratura da tutte le donne. Donne che, attraverso la tradizione orale, hanno consentito di mantenere vivo il legame che ci unisce all'immaginazione popolare, alle cui fatiche dobbiamo il nostro mondo. Vassilissa, la figlia del Pope. In una certa contrada, in un certo reame, c'era una volta un pope di nome Vassili che aveva una figlia chiamata Vassilissa. Portava abiti maschili, montava a cavallo come un uomo, sapeva usare il fucile e faceva ogni cosa in modo così poco femminile che tutti la pensavano un ragazzo. La maggior parte della gente, credendo che fosse maschio, la chiamava Vassilievich. Tanto più che Vassilissa andava matta per la vodka, il che, come si sa, è del tutto disdicevole per una fanciulla. Un giorno re Barkat, questo era il nome del sovrano di quelle terre, uscito a caccia, si imbatté in Vassilissa, che montava a cavallo in abiti maschili e stava cacciando. Quando la vide, re Barkat domandò ai suoi servitori: «Chi è quel giovane?» E uno dei suoi servitori rispose: «Non è un uomo, vostra maestà, ma una ragazza. So per certo che è la figlia del pope Vassili e che si chiama Vassilissa». Di ritorno alla sua dimora, il re scrisse una lettera al pope Vassili chiedendogli di conoscere e di concedere a suo figlio Vassilievich il permesso di andare a fargli visita e di pranzare alla tavola del re. Lui stesso intanto andò a trovare la vecchia streghina che stava nel cortile posteriore e le domandò come scoprire se Vasilievich era davvero una ragazza. La vecchia streghina gli disse: «Nella vostra camera fate appendere sul lato destro un ricamo in cornice e su quello sinistro un fucile. Se è Vasilissa, per prima cosa noterai il ricamo in cornice. Se è Vasilievich, noterai il fucile». Re Barkat seguì il consiglio della vecchia e ordinò ai servi di appendere nella sua camera il ricamo e il fucile. Appena la lettera del re arrivò al padre Vassili e lui l'ebbe mostrata alla figlia, questa andò subito nella stalla, sellò un cavallo grigio dalla grigia criniera e andò dritta al palazzo di Re Barkat. Il re andò a riceverla. Vasilissa recitò le sue preghiere e si fece il segno della croce come prescritto, si inchinò profondamente ai quattro angoli, salutò cortesemente Re Barkat ed entrò con lui nel palazzo. Si misero a tavola insieme, cominciando a bere bevande inebrianti e a mangiare gustose vivande. Dopo il pranzo, Vasilissa percorse con Re Barkat le stanze del palazzo. Non appena ebbe visto il ricamo in cornice, cominciò a rimbrottare il re. «Ma che robaccia tenete qui dentro, Re Barkat? In casa di mio padre non c'è traccia di simili frivolezze da donnette, mentre invece nel palazzo del re vengono appesi addirittura nelle camere». Poi, salutato cortesemente Re Barkat, spronò il cavallo verso casa. Il re non aveva scoperto se fosse veramente una ragazza. Così, dopo due giorni, non uno di più, Re Barkat invitò un'altra lettera al pope Vasili chiedendogli di mandare suo figlio Vasilievich al palazzo. Appena lo seppe, Vasilissa andò nella stalla, sellò un cavallo grigio dalla grigia criniera e cavalcò di filato al palazzo del re Barkat. La ricevette il re. Vasilissa lo salutò cortesemente, recitò le preghiere a Dio con devozione, si fece il segno della croce come prescritto e si inchinò profondamente ai quattro angoli. La vecchia streghina, quella che stava nel cortile posteriore, aveva consigliato al re Barkat di preparare per cena un piatto tipico farcito con perle. Se il giovane era veramente Vasilissa, avrebbe riunito le perle in un mucchietto, se invece era Vasilievich, le avrebbe buttate sotto la tavola. Venne l'ora della cena. Il re si mise a tavola e fece sedere Vasilissa alla propria destra e cominciarono a bere bevande inebrianti e a mangiare gustose vivande. Dopo le altre portate fu servito il piatto tipico e non appena Vasilissa ne ebbe preso un cucchiaio trovò una perla che gettò sotto la tavola rimbrottando Re Barkat. «Ma che robaccia ficcano nelle nostre vivande! In casa di mio padre non c'è traccia di simili frivolezze da donnetta e qui, in casa di Re Barkat, le mettono addirittura nel cibo!» Poi, salutato cortesemente Re Barkat, spronò il cavallo verso casa. Ancora una volta il re, per intensamente che lo desiderasse, non aveva scoperto se era una ragazza. Due giorni dopo, su consiglio della vecchia streghina, Re Barkat diede ordine che gli riscaldassero il bagno. Se il giovane era davvero Vasilissa, avrebbe rifiutato di entrare nel bagno con lui. Così il bagno venne riscaldato. Re Barkat tornò a scrivere una lettera al pope Vasili dicendogli di mandare in visita a palazzo suo figlio Vasilievich. Vasilissa andò nella stalla, sellò il suo cavallo grigio dalla grigia criniera e via al galoppo al palazzo di Re Barkat. Il re andò a riceverla nel portico, lei lo salutò con garbo ed entrò nel palazzo su una passatoia di velluto e poi recitò le sue preghiere al Signore, fece il segno della croce come prescritto e si inchinò molto profondamente ai quattro angoli. Poi sedette a tavola con Re Barkat e cominciò a bere bevande inebrianti e a mangiare gustose vivande. Terminato il pranzo, il re disse: «Vasilievich, che ne diresti di fare il bagno con me?» «Ma certamente, vostra maestà», ripose Vasilissa, «è da tempo che non faccio un bagno e con molto piacere mi esporrò al vapore». Si avviarono quindi al locale dei bagni. Ma mentre Re Barkat si spogliava nell'anticamera, lei fece il bagno e se ne andò. Così il re non riuscì a scoprirla. Vasilissa, lasciato il bagno, scrisse un biglietto per il re incaricando i servi di consegnarglielo quando fosse uscito. Ed ecco cosa diceva il biglietto. «Ah, Re Barkat, corvo quale siete! Non potevate certo sorprendere il falco in giardino. Sappiate che io non sono Vasilievich, ma Vasilissa. E così Re Barkat non ebbe compenso alcuno per tutta la pena che si era data. Fu tutto inutile, perché Vasilissa era una ragazza troppo sveglia e per di più anche molto bella. Per la musica lesbica indipendente ascoltiamo ora dal duo Castleberry Dupré il brano che è anche il titolo dell'omonimo CD Hot Corn in the Fire. In the name of religion, that the Israelites are scorned. Black Jews that bear affliction of a faith that's so wrong. From propaganda which led the hate, they're forced to leave their own home state. With families waiting on distant shores, they have to fight this damn holy war. You say you ain't gonna rescue, but when will your relief come? You say you advocate for freedom, when will you bring your people home? Sono Pina ed anch'io voglio mettervi a conoscenza di un aspetto riguardante la letteratura. A differenza di quanto ci ha raccontato Caterina, la quale, come avete ascoltato poco fa, ci ha dato una piccola dimostrazione della cultura letteraria orale tramandata di bocca in bocca dalle donne, io invece volevo soffermarmi su quella ufficiale. Ho cercato addirittura tra quella blasonata ed ho trovato una chicca in una sceneggiatura di Edoardo. Per me che sono napoletana, e penso ve ne siate accorte tutte, immaginate il mio grande stupore quando, vedendo il grande De Filippo, ho constatato quanto potesse essere omofobico e razzista un autore che ha segnato una svolta notevole nel teatro italiano. Per il mio compleanno di qualche anno fa ho ricevuto in regalo tutte le commedie di Edoardo. Ho cominciato a visionarle, ma vuoi per il tempo libero che è sempre meno, vuoi perché ho preferito dare la precedenza a quelle forse più conosciute, ho rivisto da poco quella di cui vi voglio parlare stasera. Si tratta di Mia famiglia, una commedia in tre atti del 1964, dove Edoardo veste i panni di un capofamiglia alle prese con due figli moderni. Una serie di avvenimenti si snocciolano via via e il grosso del dramma viene fuori alla metà del secondo atto, quando le scelte dei due giovani, figli del tempo, vengono fatte passare a dir poco come sciagurate e discutibili. In poche parole, sbagliate e pericolose. Questa situazione fa sì che il padre si chiuda in un mutismo fittizio causato dalla sua impossibilità di porre freno alle scelte dissennate del figlio e della figlia. Questo finto mutismo viene interrotto allorquando il figlio, che si trovava a Parigi per girare un film, torna improvvisamente perché sospettato dell'omicidio di un gay presso il quale era ospite e dove era approdato con l'aiuto del suo amico Guidone, anch'egli omosessuale. In questa scena, a metà del secondo atto appunto, il capo famiglia, e mai nessun termine risulta più appropriato, ricomincia a parlare sputando sentenze a destra e a manca, non risparmiando nessuno e nessuna, né la moglie, né il figlio, né la figlia. Penso o posso essere esaustiva di quanto sia discutibile il concetto di padre padrone e spesso da Edoardo, questa frase emblematica. Come fai a comandare in una casa e in famiglia quando chi deve eseguire i tuoi ordini non è d'accordo con te? Quando tua moglie ed i tuoi figli, invece di collaborare, di seguire gli ordini che tu dai, ti dichiarano guerra. Una guerra fredda, combattuta con l'arma dell'ironia e del boicottaggio. Come fai a comandare? L'apice viene raggiunto quando, riferendosi all'amico del figlio Guidone, lo apostrofa con l'appellativo di infelice. Infatti Edoardo, dando sicuramente prova di bravura, recitando con maestria la parte di un padre affranto dal dolore per l'accusa rivolta al figlio, riesce però anche a far trapelare quelle idee omofobiche di cui accennavo prima. Il brano, che tra poco vi leggeremo, è stato recitato con una violenza inaudita. Ascoltate. Quante volte ho predicato che quell'infelice in questa casa non ci doveva mettere piede. Invece niente, Guidone a tutto passa. E tu per prima hai permesso che quell'individuo frequentasse i tuoi figli. Un uomo che appartiene ad una categoria di gente che non ha niente da perdere, che una famiglia non se la potrà mai creare. Che cosa ti vuoi aspettare di buono? Ah, una setta diabolica che funziona da un capo all'altro del mondo ramificando e mettendo radici dappertutto. E si impongono in tutti i modi, con ogni mezzo, persino con l'arte. Si impongono. E con il gusto raffinato, ma per carità, mettono su un negozio e tutti dicono è un negozio di raffinati. Ed Edoardo continua in tono ironico e scanzonato rispetto alla possibilità che i componenti di quella setta diabolica diventino parrucchieri, sarti, scrittori, dando tra le righe dello sciocco che si fa abbindolare a chiunque si faccia vestire, si faccia acconciare i capelli o legga i libri di quegli infelici. Fatti mi sorrare, fanno amore i marocchini. E i marocchini si votano le lanze, signorini che panzano lanze. Ah, mi sanno espresso, la moda del vagabond. Si nove la pulissima, e manaro voi. Sigarette, pa, pa, caramelle, mamma. Biscuit, bam, poi dolore, signori. A ieri sera piazzata, lo son da mia era vaga. Si non è vago, andrà, ma già stiamo da usare. E la navi tutta, cupi, e la navi tutta. E qui si può cimare, e la navi tutta, Quella che avete ascoltato era Lina Sastri con il famosissimo brano Tammurriata Nera. Vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno del martedì femminista autogestito sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Dunque, fin qui avete ascoltato dapprima il contributo fornito alla letteratura dalle donne attraverso la cultura non ufficiale tramite l'utilizzo delle favole, che sicuramente fa emergere una figura di donna molto diversa da quella solitamente rappresentata. Poi vi abbiamo sottolineato quanto, invece, la cultura ufficiale possa far passare concetti quantomeno dispregiativi, senza che chicché sia abbia mai obiettato nulla, ufficializzando teorie razziste ed omofobiche, vedi la commedia di Edoardo. A questo punto ci sembra giusto farvi ascoltare, invece, uno dei modi che le lesbiche hanno di rappresentarsi. Vi leggiamo un brano di Ellen Thompson, tratto dal libro Considerate le circostanze, intitolato Amore lesbico. Uno dei modi migliori di vivere felicemente una relazione lesbica è ridere di tutto il resto. Io e Polly lo facciamo sempre e non ci facciamo mai mancare sorrisi e belle risate. Siamo donne di mezza età e, in effetti, non è difficile essere di buon umore a questo punto della vita, se nel corso degli anni hai maturato una certa inclinazione al divertimento. Viviamo insieme da soli 5 anni, ma crediamo che sarà per sempre. Polly è vedova e io divorziata. Ci incontrammo 7 anni fa, quando fummo chiamate a far parte di una giuria. Lei era sposata allora, ma il marito si ammalò poco dopo che eravamo diventate amiche. Lo accudì durante tutte le fasi di una malattia terminale. Non era un brutto matrimonio, ma è di gran lunga più felice con me di quanto lo fosse con lui. Il mio matrimonio fu un disastro, durò pochissimo e non mi venne mai più in mente di risposarmi o qualcosa del genere. Non potevo certo immaginare, quando fummo chiamate a comparire in tribunale, che avrei trovato la compagna della mia vita. Era l'ultima cosa a cui pensavo. E questo dimostra che la vita ha sempre in serbo delle sorprese. Non importa quanti anni ti porti addosso, o forse, in chissà quale modo, siamo noi che ce le andiamo a prendere quelle sorprese. Fui subito attratta da Polly. È una donna distinta, con i capelli biondi raccolti in uno chignon. Alle rughe ed è sempre in ordine, sempre elegante. Dopo il processo iniziamo una bella amicizia, perché tra le udienze e le pause eravamo sempre insieme. Me ne tornai a casa pensando che non provavo una cosa del genere per qualcuno dai tempi della scuola. Venne a trovare me il mio gatto e io andai a trovare lei e suo marito. Pensavo fosse l'uomo più fortunato sulla faccia della terra. Lui era già malato. Polly dice che con la mia disponibilità le fui di grande aiuto durante quel lungo periodo. Cosa fosse esattamente quella disponibilità, non lo so. Cercavo di sentirla spesso, le mandavo delle cosine che mi venivano in mente, così, per capriccio. Quando Polly suggerì di prendere un appartamento insieme, rimasi di sasso. Non me l'aspettavo proprio. Non voleva continuare a vivere con il suo unico figlio? Era grande ormai, certo, però viveva ancora a casa sua. E poi sarei riuscita a trovarmi a mio agio dopo anni di vita solitaria? Furono gli eventi a metterci insieme. Il figlio si fidanzò e Polly liquidò la loro casa per dividere con lui il ricavato. Per conto mio, mi arrivò un'ingiunzione di sfratto perché al posto della mia casa ci dovevano fare un complesso residenziale. Alla fine ci buttammo nel trasloco all'ultimo piano di una villetta. Non lo abbiamo mai rimpianto. All'inizio tenevo ben nascosto a Polly che avevo delle fantasie sessuali su di lei. Sapevo che le piacevo tantissimo, come amica. Sono più minuta di moglie, più scura, e i capelli mi diventano grigi ogni giorno di più. Dice che sembro un gufo. Quando cominciamo a raccontarci le nostre esperienze passate e a farci domande sulle nostre vite, venne fuori che eravamo lesbiche. La prima volta che ci imbarcammo in giochi erotici, commettemmo lo stupido errore di imitare quello che fanno gli etero. Nel bel mezzo di quella roba, dissi, no, è assolutamente ridicolo, non abbiamo bisogno di queste mosse, facciamo quello che ho fatto da sola per anni. Adesso ne abbiamo fatto un'arte. La domenica sera è dedicata al sesso. Facciamo il bagno, ci mettiamo i pigiama di seta e ci sdraiamo in soggiorno, sul futone, sopra cuscini e asciugamani per stare più comode. Siamo tutte e due in menopausa e le nostre vagine producono, gentilmente e un po' a caso, diversi tipi di liquido. Ci abbracciamo, ci accarezziamo e ci baciamo. E parliamo degli anni prima che ci incontrassimo. L'infanzia idillica di Polly mi diverte. Nella sua famiglia nessuno ha mai osato alzare la voce. È incredibile. Ognuno sbolliva la rabbia per conto suo. La mia famiglia era più normale. Faceva tutte le solite cose che ti fanno male. L'eccitazione comincia quando ci tocchiamo i seni. Polly ha il seno grande e pendente, più soffice di un letto di fiume. Il mio è più piccolo, con i capezzoli all'insù. Li trova divertenti. Ci sdraiamo sulla schiena e con piccoli movimenti, leggeri e circolari, ci accarezziamo a vicenda la clitoride attraverso i pantaloni di seta. È stimolante come una scarica elettrica e dobbiamo fermarci spesso per lasciare sospeso l'orgasmo. Chiamiamo questa fase galleggiare intorno alla luna. È l'ora di accendere la radio sul nostro programma preferito. Il sessuologo risponde. Ci rotoliamo sul futone dalle risate, sentendo le domande degli ascoltatori. Batte qualsiasi programma radiofonico e anche televisivo, se è per quello. Quando ci sentiamo vicini all'orgasmo, mettiamo una mano nei pantaloni per far scivolare un dito sulle labbra bagnate. Lo chiamiamo fare surf. Abbiamo provato a farlo contemporaneamente, ma preferiamo approcci indipendenti. Dopo l'orgasmo, ridiamo delle conseguenze. Intanto, talk show va avanti. Dottore, il mio ragazzo mi chiede la fellazio. Io e Polly facciamo dei versacci, ma il buon dottore, con grande pazienza, suggerisce quello che si potrebbe fare. Poi puoi leccarlo come un cono gelato o un chupa chups. Ci allunghiamo verso il tavolino per prendere una caramella vera dal bastone. La domenica sera è dedicata a tutti i vizi immaginabili. Cunnilingus non rientra nella nostra serie di stramberie. Ci limitiamo a galleggiare intorno alla luna e a fare surf, viaggi eccitanti. Dottore, i rapporti anali sono pericolosi? Urliamo. Come si fa a divertirsi con quella tortura? Per una coincidenza, capitò ad entrambe una sola volta con i nostri mariti ed eravamo sotto shock dal dolore. Ci abbracciamo e ribadiamo quanto sia salutare e rilassante l'amore lesbico. 2 anni fa sono andati in prepensionamento dal servizio civile e ho una piccola pensione. Polly ha smesso di lavorare alla recepzione. Abbiamo rilevato un chiosco alla stazione del metro e facciamo un turno a testa, uno di giorno e uno la sera. Gli affari vanno benissimo perché lì vicino ci sono un centro conferenze e un college. Vendiamo giornali, riviste, sigarette e bevande. Ci tiene occupato ed è sicuramente meglio del lavoro che facevamo prima. Ci saremmo innamorate da giovani? Beh, si possono solo fare ipotesi su un passato che non si può rivivere. Siamo felici di quello che è venuto con l'età e un cuore riconoscente significa felicità. Hey, Jamal! Avete ascoltato dalla splendida voce di Aretha Franklin il brano Bring It On Home To Me, mentre la musica di sottofondo al racconto di Ellen Thompson era della pianista lesbica tedesca Inge Latz. Il coordinamento Lesbiche Romane invita a telefonare qui in radio allo 0649 1750 oppure al Buon Pastore allo 06 6864 201 telefono fax. Vi ricordiamo che il Centro Femminista Separatista si è momentaneamente spostato in via della Lungara 19 e che presto si sposterà ulteriormente presso l'ex ristorante Benito per permettere l'inizio dei lavori di ristrutturazione di cui vi abbiamo ampiamente illustrato nelle precedenti trasmissioni. Il Coordinamento Lesbiche Romane vi saluta sulle note di Tina Turner con il brano Whatever You Want, augurandovi un buon 1999. Whatever you want me to do, I will do it for you. Whatever you want me to be, I will be what you need, because it's love that I feel whenever you're in here. I'm feeling sensual. I can't rely on myself. I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up, 'cause time takes what love heals. Do it for you, whatever you want me to be.